Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore e apri la nostra mente alla comprensione delle Scritture, come facesti coi discepoli di Emmaus. Cari amici, si può ascoltare il Vangelo in tante maniere, compreso quello in cui ci lasciamo convertire, o compreso quello in cui non ascoltiamo ma sentiamo anche con attenzione, ma il nostro cuore non cambia, perché oggi si parla di un Gesù che era amico di Lazzaro e di Marta e di Maria. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, colui che tu ami è malato. Il tuo amico è malato, corri. E più sotto Gesù stesso dirà: il nostro amico Lazzaro si è addormentato nel sonno della morte, ma io vado a svegliarlo. Ecco, cari amici, possiamo già subito fare un esame di coscienza e vedere che tipo di rapporto noi abbiamo con Gesù. Io sento tanta gente che dice: ah, ma io ci credo. Quando chiedo: ma tu lo conosci? Boh, un po'. Ma tu lo ami Gesù? Non lo so, penso di sì. L'amicizia è un'altra roba. Io chiedo per me e per voi, cari cristiani, che lo Spirito Santo infonda in noi la tenerezza dell'amicizia, la confidenza dell'amicizia, il coinvolgimento dell'amicizia con Gesù, con la persona di Gesù, con Gesù del Vangelo, intendo dire. E noi riusciamo a comprendere se abbiamo questa amicizia dal tempo che passiamo con Gesù. Due amici o due innamorati non sono mai stanchi di stare insieme. E dopo che si sono visti, quando tornano a casa, si telefonano. Io vi auguro che possiate avere come regalo, perché è un regalo che ci fa Dio questo, l'innamoramento, che possiate avere il desiderio, il gusto di stare con Gesù. Possiamo capirlo se ce l'abbiamo o no, da vedere se passiamo dentro a salutarlo nel tabernacolo. Perché l'amore e l'amicizia desidera stare insieme, desidera sentirsi, ed è possibile, amici. Io, per esempio, a 20 anni ho lasciato una ragazza di cui ero innamorato, perché a furia di andare tutti i giorni in chiesa, a messa e poi al pomeriggio ancora un quarto d'ora da solo davanti a Gesù, Gesù mi ha preso il cuore. E ho visto che le donne sono belle, però sono fatte di terra come me. Lui è l'infinito. Guardate, io vedo gente veramente amica di Gesù, innamorata di Gesù, ma la gente è anche comune, mica uno deve diventare prete. Io vedo persone, tante donne, anche qualche uomo, che hanno veramente una confidenza con Gesù. Io, dopo alcune confessioni con alcune persone, dico: guarda, io ti do la soluzione perché io sono sacerdote, ma quasi tu dovresti darmi la benedizione, perché tu hai un rapporto con Dio straordinario. Ma è un amico difficile questo Gesù, a cominciare da quando gli dicono: Lazzaro è malato, e lui dice: va bene, aspettiamo un paio di giorni. Ma come? Noi ci metteremmo a correre, faremmo non capiremo più niente per andare incontro e lui aspetta 2 giorni. E questo anche Maria e poi Marta dicono: veramente Gesù, se tu fossi stato qui, adesso ormai è tutto finito. Gesù è un amico esigente che però non delude. Vi porto una piccola mia testimonianza, amici, perché io credo che anche un genitore, un nonno, non può insegnare il Vangelo ai suoi figli, neanche una catechista, solo con la teoria. Deve portare esperienze di vita. Io ero un giovane prete a Milano, ero andato con i ragazzi dell'oratorio feriale in gita, torno a casa e mi dicono: è tutto il pomeriggio che ti cercano perché tuo papà sta morendo. Non c'erano i cellulari per raggiungere le persone, allora io deposito lo zaino e senza neanche cambiarmi prendo la macchina e vado. Ma mi dico: Ambrogio, vai adagio, perché se ti metti a correre e non capisci più niente c'è il rischio che metti te e gli altri nei pericoli. Ho detto: Signore, se tu vuoi farmelo trovare ancora vivo ti ringrazio, se tu te lo sei già preso te lo affido. Arrivo all'ospedale, mi lasciano entrare in sala di rianimazione, vedo mio padre sotto questo lenzuolo verde intubato e gli vado lì. Avevo una sola cosa da dirgli e gliel'ho detta in dialetto perché capisse bene: papà, te veri ben, papà, ti voglio bene. E visto che lui non dava accenno, gliel'ho ripetuto: te capì, te veri ben. E lui ha mosso la testa e quando ha fatto così ho preso e sono venuto via. Basta, il mio compito era finito, di dirgli il mio amore. E mezz'ora dopo infatti il Signore se lo prendeva e dice: oh Signore, sei stato un amico esigente ma un galantuomo, e hai fatto come per Lazzaro, hai aspettato ma il tempo l'hai comandato tu. Cari amici, non sempre finisce così, non sempre dice: tu sei stato fortunato. È vero? No, non sono stato fortunato, sono stato benedetto. Ma ciascuno di noi può chiedere al Signore, nel nome dell'amicizia che ha con Lui, gli possiamo chiedere anche i miracoli, amici. Sta poi a Lui decidere, ma è un amico difficile, incomprensibile, ma che non delude. E tante volte noi lo capiamo e tante volte la gente non lo capisce. Abbiamo visto anche in questo Vangelo, c'è sempre qualcheduno che dice: ma abbiamo sentito domenica scorsa, ha guarito il cieco nato, forza, perché non si dà da fare anche per questo suo amico? È sempre così, amici, è sempre così. Tu puoi fare tutto, ma c'è sempre quello che non gli va bene. Dobbiamo essere pronti, amici, anche per la nostra fede. Non crediate di riscuotere successo. C'è sempre quello o che ti prende in giro o che ti fa restare male. Gesù è un difficile amico. E infine, non solo non viene capito, ma addirittura lo fanno fuori. Perché? Perché non sanno arrendersi all'evidenza. Ha fatto risorgere quest'uomo sotto i vostri occhi e voi dite: è pericoloso questo. I romani possono venire e farci fuori. È meglio, guardate che è tremenda questa frase, ma purtroppo ancora oggi viene pronunciata. È meglio che muoia uno, ma che si salvino tutti gli altri. Quante volte si fa di una persona un capro espiatorio? Ma si salvano tutti. Ma ogni persona è lei, ha il suo valore. E quindi se decidiamo di seguire Gesù, è bellissimo, ma dobbiamo anche essere pronti a tutto. E infine, tra tutti questi personaggi, c'è Lui, c'è Gesù. Qualche cosa ho già detto, no? Che è possibile amarlo, essere amati, essere chiamati amici. Ma alla fine esce in una frase straordinaria e purtroppo per noi, compresi che siamo qui in chiesa, troppe volte incomprensibile. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Amici, onestamente, quanta fatica facciamo a credere in questo? Anzi, quanta gente io vedo che non ci crede. Che bestemmia Dio. Quanta gente io incontro che ha smesso di andare in chiesa da quando si è ammalato un proprio congiunto, da quando ti muore papà. Diverse ragazze le ho viste quando le preparavo al matrimonio, ma non va... No, no, il Signore mi ha fatto morire mio padre ancora giovane, io non ci credo più. E tagliano i ponti con Gesù. Il problema è, cari amici, che anche noi, io mi metto insieme con voi, anch'io faccio la mia fatica perché devo fare il salto, però lo so, io lo so che esiste la risurrezione, io so che esiste il paradiso. Non ci sono ancora stato, però io so che lì c'è la Madonna, quella che appare nelle apparizioni, viene dal cielo, è per quello che è così bella, sempre. Lì c'è Gesù, lì c'è il mio papà e la mia mamma, i miei fratelli, amici, per fortuna che c'è il paradiso. Libero ciascuno di andare in crisi e di non crederci, ma libero ciascuno di avere lo sguardo proiettato verso l'infinito.